sotto la base. L'hai messo in verticale, giustamente, no? Sì, sì, è verticale. Praticamente è un dipolo verticale alimentato al centro, praticamente. Così, così dicono. Sì, già la conosco, perché anche Emanuele ce l'aveva così. Nel giardino suo, l'avevo messa insieme, l'avevo messa. E poi, quando è andato via da lì, al dottor Todi, alla... Ma comunque, lui va bene, Emanuele stesso. Si è andato in terra, il palo. Ma non è che gli aveva a fare molto alto, comunque. Ma maggiore bene, a me non piace la verità come antenna, io sono fissato con le mantova. Ce l'ho anche una mantova, la stavo riparando, ma il radiare è tutta roba marcia, Ho provato a ricostruirli, ma non l'ho mai assemblata. Poi non mollava più nelle giunture, quindi certi pezzi li ho dovuti tagliare a seghetto, poi bisogna unirli di nuovo con un'anima interna, perché non riuscivo più a tagliarla, a dividerla. E io stesso mi sono comprato la filiera, maschio e femmina. Adesso, se mi manca un filetto almeno lo posso costruire, capito? Con me attrezzatura lì anche troppa. Fai da te, mi faccio anche i mobiletti, non mi manca niente. Niente, mi manca soltanto che mi preferisco più traliccio, ma sto pensando di autocostruirlo io in ferro e non me ne fotti nulla. Basamente cemento, sa da dirci ce l'ho, quindi. Un po' di ferro zingato, uno che lo faccia ruggine, oppure prima te lo fai e poi te lo fai zingare. Sì, anche quello è vero. Vediamo, per adesso non sono a fare questi lavori qua, ma quando lo faccio un traliccio di 8-9 metri ce le fila per il maiale. Se si è aperto non è bisogno. Sì, questa antenna c'è di buono che non ha bisogno di altezza, d'altezza, perché non ha radiale, capito? Quindi la puoi mettere anche a un metro d'altezza, non dà problemi. Ma fra io e tu nuovamente, perché io ci ho passo qua a fianco della villa che è abbastanza alto, capito? A me l'antenna sopra non me la fa mettere, già se me l'ha fatto spostare, addirittura dice, le onde sa qua, e dice, dorme, c'è la camera di mia figlia, le onde fa male, guarda che non c'ho mica 10 milioni di watt, io c'ho con Radio Maria, io c'ho così con watt. Poi insomma siamo mezzo attaccati, poi dopo 2-3 giorni si è avvicinato e mi sono informato, ma lei se non usa 24 su 24 già non fa niente, tanto ascolta corra. Io non mi dormo col baracchino attaccato al letto e continuo a parlare anche nel sogno, ma Candè non mangio mai, ma cosa dite? Tu dici guarda che se la metto sul tetto è meglio, perché le radiazioni vanno da un'altra parte. Ma poi, dai, dimmi tutto fra, che ti ho del baracchino ha mai fatto male a qualche persona, io. Siamo pieni oggi di radiazioni, però i telefonini li vogliamo però, E è vero che farò più male, che uno mette vicino all'orecchio, un grimba. Io ci ho visto mettervi la voce e tenermelo in mano, pensa un po'. Toccatemi tutto, ma non il cellulare, ormai. Non ho visto che anche i ragazzini mangiano il telefonino, e non sono sempre, e il messaggio è quello, vanno in bagno e il telefonino, se vanno a quelle case, sempre un telefonino, sempre, è una cosa, guarda, che ha preso, io molte volte con mio nipote ho detto, ma lascia il telefono, mette e mangia, dove maniaca. Anche gli elementari ce l'hanno, no ragazzini, bambini di 8-9 anni. Sì, sì, 8-9 anni, ma si è conosciuto un bambino di 4 anni con un telefonino. E come lo maneggiava bene, più bravo di me. No, quello i genitori glielo danno per rimanere tranquilli, tipo il ristorante, no? Gli mettono qualche cosa, un videogioco oppure, non so, un cartone animato, in maniera se lo maneggiano meglio di loro. Eia, gli hanno scaricato tutti i giochi, lui andava, e poi telefonava pure al padre. Eia. Ma siamo rimasti in due, fra, non vi riusciamo. Ah, era perché non rientri. Non entro perché non ho il telefono, tu lascia il telefono io. Vabbè, ma tu hai, se tu hai detto chi l'ha detto, vuol dire che tu hai già mollato un quel pezzo. Gaba, vabbè, dai. Poco fa ti abbiamo chiamato e non ci nemmeno più. Ma poco fa è perché mi hanno chiamato al telefono, Idem. È una carissima amica, la Ichetta. Sempre in traccia, Emi. Io non ti ho chiesto nulla. E poi che ore sono adesso? Le 19:09, ancora è presto. Alle 8:30 già viene anche lì, che oggi giovedì già lo sai. Va bene. Ah, adesso non so se le porta lì le pizze, sempre pizza con magnari, cioè, mamma mia, ragazzi. Sì, l'altro giorno l'abbiamo preso sotto casa, belle croccanti, bucherani vuoti, con le piccole al taglio. Cosa te ne hai preso, 10? Sì. E tu te ne hai mangiato 5? No, 4. Ma sappi una cosa, oh, carissimo Gianni, quelle pizzette là sono buone, quello che vuoi, non lo metti in dubbio, ma hanno un particolare. Quando tu le mangi 1, 2, 3 o 4, lo sai quanto si gonfiano nello stomaco? No, a me no, a me no. Io le digerisco tranquillamente e non mi danno problemi, se no non le abbiamo mangiate. Quella è la limitazione. Se fanno male la limitazione, magari sono croccanti così è perché sono limitate bene. Facevano cricchi crack quando le mangiavi, buonissime. Sì, ma forse vabbè, tu le ammazzi la limitazione, che mai è veramente veloce. Io a Giovicchio, quella volta io l'ho mangiato, stavo finendo, la prima stavo finendo e tu l'avevi mangiato 3. Carita, un aspirapolvere sì. Mangia, è come mangiare una pizza grande, per la stessa cosa. Ma te le portano a casa anche? Sì. Anche farcite? Come le vuoi. Poi mi passi il nome. Pizzeria La Croccante, via Amores 28. La Croccante. La Croccante, sì, sì. Però non le fanno nel venerdì e nel sabato, fra. E allora lo scrivo, aspetta. No, venerdì non sabato, domenica sì invece. No, domenica è chiuso. E a me me le porteranno fino a casa già. Venerdì e sabato praticamente non le fanno perché fanno quelle grandi, se no non c'hanno tempo che lavorano poi il venerdì e sabato. Durante tutta la settimana le fanno e sono un bel buono. Oh già, ma a me me le porteranno fino a casa. No, non lo so, bu, sei troppo lontano, salvo. Forse a metà strada, mi. Hai scoperto, forse prima mi andai a pigliarmi direttamente. Tu quando ne vuoi devi venire a casa e ce la mangiamo qua. Hai capito, fra? E allora, anche panini fanno? Sì, sì, fanno tutto, fra. Adesso la cerco. Oh già, quando mi sono preso quei due panini grandi, rotondi, insomma, sul mercato dietro là, in su, eccetera, eccetera, me ne sono fatte due bottiti. La notte lo sai che ho fatto la mia glicemia, a 3,80. Sì, ma grazie te ne mangiare. Due, me li bottiti. Io me ne ho fatto uno, l'altro giorno mi ho preso uno di quei panini rotondi, che stai dicendo tu, quelli che fanno, diciamo, nelle paninotecche. Ho preso un booster cipolle, le ho messi a cucinare sulla piastra, e poi me le ho messi in mezzo e le ho messo il ketchup, ma non c'è cantera di buoni. Allora, io ho fatto il booster, me li arrosticci, poi ci ho messo le patatine fritte e poi il ketchup. Tutti e due così me ne ho mangiati, ho tolto la colpa, la Monica specie, giustamente, che se mi hanno avuto la glicemia, un beato, che si può fare? E il pane? Allora, non devo mangiare pane, ma dimmi tu. Io ne mangio mezzo a tavola, quando lo mangio ne mangio mezzo, se no non ne mangio mezzo. No, più di mezzo Elena me lo mette già tagliato per non mangiarne di più, quindi non ne posso mangiare di più. E la felina te la passa lì la glicemia? No, se mangi solo quella no, almeno che tu ti mangi altri. Ma la felina a me, io gli ho detto al dottore che una volta quando era acciso mi mettevano la felina sotto al naso, io mangialo, io non ne mangiavo. Un giorno l'ho raccontato al dottore, mi ha detto, tu fai una cosa, mangiala la felina, non mangiare altro e la mangi lo stesso, poi ci rimangono male, tu la prendi e te la mangi quando te la mettono sotto al naso. Mi scappa, perché è anche la buona la felina. Sì. Intanto, mi sa, quella, andiamo da Pirra, come si chiama, Carlo, e ce l'abbiamo da bene. Anche quello la porta a casa, però non lo so se la te la porta. Una volta ho ordinato con Glo, mi sono ordinato calamari, patatine, la pasta allo scoglio, insomma abbiamo fatto una cena, una mega cena, dai. Il cappa. Comunque Natalino ha fatto Querix, Manuele è sparito, sì Manuele è sparito. Franco sta cercando il gnagnam, il numero. Già l'ho trovato, adesso faccio vedere il menù a mio figlio, se magari ordina qualche panino, vengo subito, dai. Ottra, ma c'è tutto il menù pure? Sì, ho trovato il menù su... mi ha portato forse su Facebook, dai. Non ho capito. Sì, sì, però dopo me lo cerco anch'io. E quello è sotto casa, mi fra, è proprio sotto casa mia, io se voglio scendo giù per le prese. Tu scendi con la corda, Cesino, te ne fai un buon indretto, grazie. Vediamo subito, vai. Beh, mi fa pagare 3 euro cazzo per portarmela a casa a due bassi, cioè deve fare dalla pizzeria al portone. Scusa, ma non fai più andare a portare il cestino giù con la corda? Ma, a sapere, comunque, io ne le pago e me la deve portare, perché io non c'è la per mettere in pigiama, tu lì non ne ho voglia di scendere, capito? Se no... ci sarei sceso, non c'erano problemi, ma una certa ora mi metto in pigiama, me ne sto comodo e me ne portano loro, aspetto apparecchio e tutto, quando arrivano lo mangiare. Signora, io te ne do 3 euro, però tu ti fai ricare a piedi, 3 piani, non l'ascensore. Giusto già, no? E beh. Ma non gli costava nulla mettere l'ascensore, li mettevi su, e me la mettevano l'ascensore. Che 3 euro per fare due, non consumano manco benzina per la moto, per la macchina, fanno due passi, sono da una porta all'altra. Gesù, io pensavo non ti prendevano 3 euro, che sopra lei, che cane morto, eh. Ma le pizzette sono buone, non posso dire niente. Una volta solo me ne ha mandate tutte oleose, non capisco se ha cambiato mano o che cosa, erano mondighi da mezza, non serviva, il giorno ho capito che non era lo stesso che le ha fatte. Dopodiché tutte le altre volte che le ho prese erano buone. Vabbè, dai. Comunque. Sì, comunque sono più o meno come quelle di Cocco e Rosello, dai. Chi ormai si è fatto un uomo. È fatta quella volta che l'ultima volta sono andato io anni fa. Ho detto, ma tu cos'è? Ogni settimana stavo aumentando. E qui ti stanno sollevando, ma fa una cosa, no, mi interessa più, vado ad un altro posto, ciao, me ne sono andato, non mi sono più entrato. Le dà 1,80 qua giù, perché Cocco quanto ce ne ha? Non lo so, io sono anni che non ci vado più, quando mi ha rotto le mani gli ho detto in faccia, me ne sono andato. Poi Cocco le devi ordinare tramite internet, ogni volta è un casino, mettere password, mettere questo, mettere l'altro, a me mi gira le scarpe. Prendo il telefono direttamente e me la faccio portare, così a Cocco a ordinarla su internet per portarti la pizza, va che danno. Io mi ricordo l'ultima volta che l'avevo presa era che poi l'indomani aveva aumentato, era 1,15 euro. Poi dopo neanche una settimana ci sono andato, ho detto scusami, se per 1,15 euro, no, 1,25 euro, perché scusa, a me 10 centesimi, perché la roba è aumentata, allora non mi interessa più, ciao, è rimasto in mezzo, a me ci sono andato, e non ci sono più entrato. Questo è una rotta. Ma bisognerebbe, ma i prezzi sono aumentati, sono passati anni, io già, non lo so. Ma sono 1,80 anche via Grazia Veleda, quasi da tutte le parti sono 1,80. Però ti ripeto, l'ultima volta che le ha portate erano proprio belle croccanti, ma belle poi me le porta calde, qua come se andassi nella pizzeria a prendere. Ma le fa che farcite le fa? Sì, le fa come le vuoi, ci mette le acciughe, quello che vuoi. Ma ti costano di più. È normale, non è che ti devi pagare un matessinato se ti mette le fanno farcite. Sì, ma gira, cosa ci mette di acciughe o capri per esempio o qualche cosa, un pezzo di prosciutto, no, ma meno un po' di funghi, non è che ci mette 2-3 euro o 4 euro di funghi, no? Quello che tu vuoi ci mette, lui c'ha tutte le cose dentro i barattoli che mette nelle pizze, tu quello che vuoi chiedi ai funghi, ci mette la gorgonzola, ci mette i ciuchetti bianchi, però a me mi piacciono più margherita, sono più buoni. Perché voglio dire, nella quantità te ne mette poco e ci va a zombare. Io con la roba, se voglio, ce l'ho io a casa mia, me la ordino a casa mia, me la metto come dico io. Poi metto il microonde, le vostre sciogli e via. Lo so. Diciamo che ho un po' rimito mettendo la roba, adesso prima la mettevo bella abbondante, adesso ho preso il tonno e cipolle, l'altro giorno il tonno manco si vedeva. Allora ho fatto una cosa, l'ho presa da un'altra parte e il tonno si vedeva. Allora ho detto adesso la prendo sempre lì perché la fanno buona lo stesso e ci si vede anche il tonno. Lì era proprio trasparente. Andà bene, vabbè. Che ci è rimasto qui, la croccante. Paga. Però già sono buone le pizze, dai, bravo, facendo le pizze. no, io ti ho mangiato il santuario, buono, dai. Ma non c'era che Antonio, il mamuglio. Antonio. Sì, non c'è più nessuno che... C'è Franco anche, Franco da fa vedere il menù al figlio. E poi l'altro giorno da Globo mi sono ordinato le sushi. Le sushi, sì. Però portarlo così a casa non conviene andare a mangiarlo, perché con 18 euro rimani a Globo quanto ne vuoi, lo puoi dire 3, 4, 5 volte. Interessante che ti mangi tutto se lo paghi da butta. Invece a casa ti mandano quel tanto ricca, se c'è venuto quasi 50 euro, no? Ica è pezza. No, non mi è mai piaciuto il sushi, la verità, già. Sarò scherzinoso quello per l'altro. Ah, comunque mi sembra che è già partito da oggi, mi sembra, la Comunità Europea, la farina delle cavallette, eccetera, eccetera. Pucci, che schifo. Farina di grillo. Schifo. E la mettono anche nel pane. Allora, in tutti i prodotti che tu compri ci deve essere scritto se c'è la farina del grillo, eccetera, eccetera. Quando mi chiedo così non compareggio e se attacca al naso. Ehi, dove lo scrivo? Se non lo scrivo di la maniera mantessa. Ma non compareggio più e c'è la miglialucci. A fuori di carne e verdura. Ormai c'è nulla osta. Ho visto su internet l'allevamento dei grilli in questo capannone, migliaia ne aveva questo qua. Sì, ma io ho visto invece al Pizzicotto 2 Sant'Orsola, che dicono che è vietato, fuori, tre lavoni minimo sono stati 20-30 litri di olio di palma. Stavo per fare la fotografia mentre ero sulla Nuova Sardegna. Oh, tra un po' ne vedi che brinchendi. Ah, già. Così zede già. A furia di mangiare farina di grillo, ne vedi che brinchendi. Già, non hai visto che ha fatto di fare la pizza anche davanti a te, devi fare una spruzzata di olio. Sì, sì, sì, ma quello che c'è sotto casa mette l'estravergine, perché l'ho vista io la bottiglia. Ma forse c'è la bottiglia, ma avrà, diciamo, travasato l'olio di palma, perché quasi tutti lo usano perché costa poco. Sì, sarà di Santa Maria la palma magari. Le persone serie usano con l'estravergine, non ti preoccupare, lo pagheranno di più, però almeno è il sapore diverso. Io una volta sono andato da una certa persona che conosco bene, bene, bene, che ci aveva aperto un tipo un pub, e sono andato in cucina e ho visto delle cose, ho detto che schifo, ma come non mangio mai, no, io. Niente, la roba che gli portavano indietro, il cameriere, lui lasciava là. Quella roba che era morsicata la buttava via, tutto il resto metteva in un altro piatto e riportava in un altro cliente. Che schifo! Io ho visto una cosa al ristorante, ero con mio cognato e altri due amici miei. Siamo andati a mangiare al ristorante, ho visto il cameriere che aveva i piatti con la carne e cose, gli è caduta la fettina in terra, si è inchinato, l'ha presa e l'ha messa sul piatto e poi l'ha servita al cliente. E tu poi ho detto al cliente, guarda che l'hai caduta in terra con la fettina. Sicuramente non ci sarai più andato lì. Guarda, era, ti posso dire anche dove era, non so se tu conosci il MES in via La Marmora. Qui a Sassari? Eia. E che altezza rimane già? Movimento ecologico sardo, carriera rocca. Rimaneva passando nelle viuste, passando da Rosario lì e alla fine di carriera rocca. O all'inizio, come lo vuoi chiamare, forse l'inizio di carriera rocca. Si girava lì e c'era questo locale qua, il movimento ecologico sardo. E l'avevano preso degli amici praticamente con la liquidazione, c'erano licenziati e si avevano aperto questo locale, c'era musica e ci lavoravo anch'io, io a volte no, mi pagavano le serate, li aiutavo, poi domani andavo al lavoro e servivo eccetera eccetera. Ma questo cameriere l'avevano assunto da poco, infatti poi l'avevo detto a questo amico mio quello che aveva fatto e l'aveva ripreso, capito? Allora io ci sono nato, si può dire, in via La Marmora, Gianni, via Carmelo, appena gira a sinistra, via La Marmora all'inizio, e c'è un vicolo chiuso e a fianco c'è una porta grande di ferro. Allora lì è quello che dicevo io poco fa, cosa si chiamava Contini, che aveva aperto questa, che è cognato mio fratello praticamente. Angelo Conti, poi che lui c'aveva la pescheria, c'aveva la roba di Suggerazzi, poi prima ancora, anni ancora dietro, ero più giovane ancora io, e lì c'era la pasticceria di Corso Bacchiccioni. E vabbè, comunque il MES, non so se tu l'hai conosciuto, un movimento ecologico Sasa. No, non l'ho conosciuto perché sono anni che non passo da lì, quindi e tiro, ma è sempre là comunque. Ma questi qua purtroppo è così, per guadagnare soldini fanno questi lavori qua. No, neanche io non l'ho mai sentito. Anni fa, io avevo 18 anni, 19 anni. Io guardate che ci sono quasi 30 anni, dai. Oh, io vi devo lasciare perché sono già le 7:26, non so se questa ha ordinato le pizze o devo ordinarle io, non mi ha detto nulla, adesso la telefono, vediamo un po' se devo ordinarla. Ok, dai, già, ci sentiamo. Stai bene, mo' carico, lo fai, ciao Franco, saluto anche Vittorio Ascoltoni, ci sentiamo. Quello tengo da parte mia, ciao ciao. Ciao Tony, ciao, ci sentiamo, buona serata, saluta a mia moglie. Cappa, ce l'ha fatto. Cappa, ciao Tony, alla prossima, buona serata, buona carica, buon tutto. Sì, anche noi abbiamo ordinato, però non lì, mio figlio ha guardato gli ingredienti, sono diversi. Dove l'avete preso? Ormai lì, la Gigi Pizza. E dov'è questo Gigi Pizza? Non so. Lo sai dove li fanno bei burri, da pane grosso, via Lune e Sole? Lì, se capita, ce li mangiamo anche lì. Sì, qualche volta abbiamo preso anche lì. Cappa. Oppure da Renato e il Massimo. Anche lì, specialmente da ragazzi. E poi dal fratello di Renato, quello che c'è, Roberto, quello che c'è in via Mendola, la fine. No, più o meno non mi ricordo. Poi mi ricordo da ragazzi che lo avevo chiamato Tettino Delinda, te lo ricordi? Cosa? Tettino Delinda, quello che c'era, la via che scende da Piazza d'Italia, come si chiama? Via Calalberto, cos'è? La via centrale. Ah, sì. Via Calalberto, sì, ho capito. Vabbè, prima ancora c'era, dove c'è il banco di Sardegna, lì scendendo via Sassari, praticamente c'era un ristorante che faceva anche panini, quelli erano la Forchetta Sarda, si chiamava, te lo dico. Ma via Sassari o via Cagliari? Via Cagliari forse, sì. Vabbè, la prima, non la seconda, adesso non mi viene se via Sassari o via Cagliari. Via Cagliari, come esci dai Portici per andare da Piazza d'Italia a Piazza Castello, a sinistra, la prima. Sì, allora è via Cagliari, lì c'era, dove c'è il Banco di Sardegna, la parte del retro del Banco di Sardegna, lì c'era era un ristorante che si chiamava la Forchetta Sarda e faceva anche panini, rimaneva un bel buone. No, non mi dice niente, no. Qualche volta mi lo prendevo quella friggitoria che c'era lì, via Turritana, angolo, che via è. Guarda dove c'era attaccata le poste. Allora, quelli della Forchetta Sarda hanno venduto al Banco di Sardegna e hanno aperto quel ristorante vicino al lago di Gusana, che forse tu hai mangiato anche, mi sembra che mi hai detto. Sì, quelli di Gusana, tutti e due, sia il Taloro che l'altro, come si chiamano, tutti e due ci ho mangiato. Il Taloro, quello lì è loro. Praticamente dei fratelli come cacchio si busso. Sì, noi siamo, ne abbiamo già parlato, sì. E ci ho anche dormito da loro qualche fine settimana. E io avevo fatto Pasqua e Pasquetta lì, quella zona lì. E avevamo mangiato lì al Taloro, anche perché li conoscevamo, ci hanno trattato da Dio, vabbè. Ci hanno fatto le anguille arrosto, nel fuoco, pesce arrosto, carne arrosto, di tutto abbiamo mangiato. Già. E abbiamo pagato, diciamo, una cifra abbordabile. No, si mangia bene. Io mi portavo anche la canna da pesca, poi ne approfittavo la mattina presto, andavo a pescare. E mai preso? Sì, pescavo, però poi lo ributtavo a bagno, capito? Pesca sportiva facevo. Perché io non ho mai avuto la licenza delle acque dolci? Io ne ho avuto 3 o 4, poi adesso sono già tanti anni invece che non rinnovo. Ormai vado ormai me ne vado al mare, dai. Però è strano, che si paga nelle acque dolci e il mare non si paga, buh. Ma anzi, mi devo rifare anche il permesso, se c'è ancora, perché mi è scaduto anche quello del mare, perché devi compilare quel modulo. Sì, lo so, ma non è un permesso, fra. È un modo per sapere quanta gente va a pescare, che tipo di pesca fa. Non è un sondaggio più che altro. A me non me li hanno mai chiesto, io ce l'avevo, ma non me li hanno mai chiesto. No, neanche a me mai chiesto, però l'ho sempre fatto, dai, visto che non costa nulla, almeno al mio collega ormai ho le sue coordinate già della sua mail, quindi lo stampo sia a me che a lui, però quest'anno ancora non l'ho fatto. Sì, come dici tu, sicuramente per sapere quanta gente va a pescare, più o meno per avere un'idea, dai. Sì, fanno un sondaggio, capito? E io l'avevo fatto la prima volta al computer e poi non mi prendeva più la passo, non capisco il perché. Allora sono andato in capitaneria un giorno, che sono andato a consegnargli una pedana di acqua, e sono andato in ufficio e gliel'ho detto: ma che mi potete fare? Sì, me la lasci qua lì, tanto scarica, e poi quando ha finito se la trova già pronta, e me l'hanno fatta trovare pronta, capito? Però mi hanno detto che scadeva dicembre, perché non avevano rinnovato la data, avevano lasciato la data vecchia, quindi dice: se quando rinnovano la data c'è la proroga, capito? Ho capito, sì. E vabbè, comunque, come dici tu, non te ne controllano, quindi non penso che siano problemi per pescare. Poi dove vado io, neanche le capre ci vengono. Ma interessante che rispetti gli orari, se li chiamano magari faccio casino. Se rispetti l'orario, che alle 8 di mattina te ne vai via, dalle 8 di sera alle 8 di mattina, poi dalla spiaggia devi andare via. Ehi, ma d'estate, d'inverno, se non c'è nessuno in spiaggia non c'è problema, d'estate sì. Sì, parlo dell'estate, io d'inverno vado. No, io vado sempre a Mare di Furi, in scogliera, ripeto, neanche le capre ci vanno. Poi prima anche io andavo così, però quando è caduto l'amico mio nelle rocce, lui a stentino, lì, dopo la pelosa, in quelle rocce che ci sono, quei bastoni prendendo grubi di notte, che si è caduto, è rimasto con la testa a pelo d'acqua, per poco è svenuto come ha preso il colpo, è rimasto con la testa a pelo d'acqua, ho fatto il tempo per sollevarlo, poi ci avevano fermato i carabinieri, ci hanno detto: noi dopo veniamo a trovare, manco male giunti, ho chiesto aiuto, sono venute, ci hanno aiutato a portarlo su, abbiamo portato la guardia medica, poi da lì al pronto soccorso ne hanno messo un bendaggio alla desol perché si è fratturato la scapola, un sacco, tutto pieno di taglia. No, ma noi, cioè, prima che faccia buio, zaino in spalla, canna in spalla e rientriamo, capito? Perché, come dici tu, è pericoloso, non si può camminare al buio su quelle rocce lì. A parte sono pericolosissime, sono piene di punte, di asperità, tipo rocce vulcaniche, ma a punta però. Tu figurati, a me le scarpe da trekking, le giro di qualche mese sono da buttare, il fondo in fibra ma me lo distruggono. No, poi c'è quella merma che facevo là, lui l'ha scivolato in quella merma, è caduto malamente, si è caduto nello strapiombo, proprio, ed era Mare di Furimi, non era Mare Basso. È svenuto, è rimasto con la testa, con i capelli che toccavano il pelo dell'acqua. Meno male non si è parato il giusto, se no la viene via a cazzare. No, noi sempre minimo 4-5 metri più in alto del mare, perché le onde sembrano tutte uguali, ma a volte ne arrivano certe più alte del normale, neanche te l'aspetti e ti porta via tutto, a te e la roba pure. Ma infatti, no, ma lui ci è sceso giù, allora noi ci avevamo i filaccioli per i grubi, col baratto l'ho attaccato, io ho sentito il baratto, bla bla bla bla bla, il baratto lì, Antonio, il grongo, se lo rispondeva, gli ho puntato la fila laggiù su giosso, cazzo, gli assusso mi ha giubiliato, allora sono sceso correndo, sono sceso giù, l'ho tolto fuori dall'acqua, la testa, però meno male che siccome ci avevano fermato i carabinieri al posto di blocco, ci hanno puntato il mitra, questo amico mi ha detto se per cortesia glielo poteva togliere il mitra, perché se ripartiva qualche colpo era pericoloso, e gli ha detto: noi non sappiamo chi siete, non sappiamo niente, erano giovani, ci hanno fatto aprire il cofano, hanno visto le canne, hanno visto i filaccioni, dove state andando? A pescare, tu sì, e dove andate? Ne l'abbiamo detto, ah, poi veniamo a trovarvi, ha detto, e infatti sono venuti davvero, e meno male, perché mi hanno aiutato, abbiamo portato prima la guardia medica, poi da lì l'ambulanza l'ha portata a Sassa, hanno recuperato, ci aveva la scapola fuori, tutto tagliato in faccia, in testa, mai più nelle rocce, mai più bisogna stare attenti, poi quando si diventa grandi. Ascolta, ti devo salutare che sono arrivati già i panini, subterraneo di fatto. Va bene, dai, un abbraccio e ci aggiorniamo. Ciao Gian. Appetito, fammi sapere di quel microfono, dai, che sono, sono curioso. Ehi, se no c'è poco alla perdita. Dai, ciao carissimo. Ciao, ciao Fra, ci sentiamo, un abbraccio. C'è qualcuno qua? C'è qualcuno qua? Allo? Marco, mi senti? Sì, ti sento. Dico, l'importante è che tu ricevi, perché là non stavi ricevendo, come che avessi il volume a zero, mi?